Il punto centrale, sopra descritto, è in un rapporto particolare col fiore di loto a 12 petali, nel quale confluiscono direttamente le correnti. Attraverso di esso, alcune scorrono da una parte verso i fiori di loto a 16 e a 2 petali, e dall'altra parte, quella inferiore, verso i fiori di loto a 8, 6 e 4 petali. Questa distribuzione spiega la ragione per cui la disciplina occulta deve sorvegliare con cura speciale lo sviluppo del fiore di loto a 12 petali. Se in merito si sbagliasse qualcosa, l'intero sistema si svilupperebbe in modo disordinato. Da quanto è stato detto, si può valutare l'intima e delicata natura della disciplina occulta e come si debba procedere con precisione, perché tutto si possa svolgere in modo adeguato. Riesce pure evidente che le indicazioni per lo sviluppo delle facoltà soprasensibili possono essere impartite soltanto da chi abbia già di persona sperimentato tutto ciò che ha da sviluppare negli altri, trovandosi perciò completamente in condizione di riconoscere se le sue indicazioni conducano al giusto risultato. Quando il discepolo segue ciò che gli è stato prescritto dalle indicazioni impartitegli, produce nel suo corpo eterico correnti e movimenti che sono in armonia con le leggi e l'evoluzione del mondo di cui è parte. Di conseguenza, le indicazioni sono sempre l'espressione delle grandi leggi dell'evoluzione del mondo. Sono costituite dagli esercizi di meditazione e di concentrazione già esposti e da altri simili. Praticati giustamente, producono gli effetti descritti. In determinati momenti, il discepolo dell'occultismo deve compenetrare completamente la sua anima col contenuto degli esercizi e in certo qual modo riempirsene del tutto nell'interiorità. Si comincia con cose semplici, soprattutto adatte a rendere più profondo, ad interiorizzare il pensiero intelligente e assennato della testa. Il pensiero viene reso così libero e indipendente da tutte le impressioni e le esperienze sensibili. In certo qual modo viene concentrato in un punto del quale egli ha completa padronanza. Così viene creato un punto centrale provvisorio per le correnti del corpo eterico. Tale punto non è all'inizio nella regione del cuore, ma nella testa. Si palesa al chiaroveggente come punto di partenza di movimenti. Soltanto una disciplina occulta che si dedica fin dall'inizio alla creazione di quel punto centrale potrà conseguire un pieno risultato. Se il punto centrale venisse posto fin da principio nella regione del cuore, chi aspira alla chiaroveggenza potrebbe magari penetrare con lo sguardo nei mondi superiori, ma non potrebbe acquisire alcuna giusta comprensione del nesso fra i mondi superiori e il nostro mondo sensibile. Nell'attuale stadio dell'evoluzione del mondo, quella comprensione è invece per gli uomini di assoluta necessità. Al chiaroveggente non è consentito diventare un sognatore, deve poggiare con i piedi su un terreno solido. Il punto centrale nella testa, quando sia ben consolidato, viene poi trasferito più in basso, nella regione della laringe. Il cambiamento si ottiene con l'ulteriore applicazione degli esercizi di concentrazione. Allora i caratterizzati movimenti del corpo eterico irradiano da questa regione e illuminano lo spazio animico che attorna l'uomo. Con ulteriore esercizio, il discepolo acquista la capacità di determinare da sé la posizione del suo corpo eterico. Prima, la posizione dipende dalle forze provenienti dall'esterno ed emananti dal corpo fisico. Evolvendosi ancora, il discepolo è in grado di girare il corpo eterico da tutte le parti. Si ottiene questa capacità grazie a correnti che scorrono lungo le due mani e che hanno il loro centro nel fiore di loto a due petali nella regione degli occhi. Tutto ciò avviene perché le irradiazioni emananti dalla laringe assumono forme rotonde. Un certo numero di esse va al fiore di loto a due petali e da lì si avviano come correnti ondeggianti lungo le mani. Una conseguenza ulteriore è che queste correnti si ramificano e si diramano in modo sottilissimo e si intrecciano in una specie di tessuto, una specie di rete o pellicola che si stende come un limite intorno a tutto il corpo eterico. Mentre prima esso nulla aveva che lo chiudesse e lo isolasse dall'esterno, in modo che dal mare universale della vita le correnti vitali direttamente vi entravano e uscivano, ora le influenze esterne attraversano questa pellicola. Di conseguenza, il discepolo diventa sensibile a queste correnti esterne, le può percepire. Ormai è arrivato anche il momento di dare come punto centrale all'intero sistema di correnti e di movimenti la regione del cuore. Ciò avviene di nuovo proseguendo gli esercizi di concentrazione e meditazione. Allora si è anche raggiunto il gradino su cui si viene dotati della parola interiore. Tutte le cose acquistano ormai un nuovo significato, in certo qual modo diventano spiritualmente udibili nella loro intima essenza, parlano del loro vero essere. Le correnti descritte mettono il discepolo in relazione con l'interiorità del mondo di cui è parte. Egli comincia a partecipare alla vita dell'ambiente che lo attorna e può farla riverberare nel movimento dei suoi fiori di loto.